Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuti a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il film di cui parliamo oggi è del 1977 ed è Le avventure di Bianca e Bernie, il 23esimo classico Disney. Il film è basato sui libri della scrittrice Marjorie Sharp, che vedono come protagonisti due topi facente parte della Società Internazionale di Salvataggio, organizzazione a cui partecipano i roditori di tutto il mondo. Il film inizia con l'arrivo di un messaggio da parte di un'orfana, Penny, che è stata rapita, e quindi Miss Bianca e l'imbranato Bernie decidono di andarla a salvare, e quindi partono alla rotta dell'orfanotrofio per cercare indizi. Infatti, Penny era stata rapita dalla perfida Madame Medusa, che gestiva un banco dei pegni, per poter rubare un prezioso diamante dalla difficile ubicazione. Bianca e Bernie salvano quindi la bimba ed incastrano i malviventi, riuscendo ad ottenere anche una promozione da parte appunto dell'organizzazione. Bianca e Bernie fu uno dei primi film diretti dal famoso Don Bluth, che tra l'altro, qualche anno dopo, si distaccherà dalla Disney fondando la sua casa di produzione. Ed essendo un film uscito nel periodo successivo a quello della Golden Age della Disney, ha avuto degli ottimi incassi, tanto che è stato uno dei primi film che nel 1990 avrà un sequel. Nel 1978 vinse il premio Oscar per la miglior canzone, Someone is Waiting for You. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo alla prossima puntata di Curiosità Animate.